questo nostro amore. Tu sei il pensiero, tu la poesia, primo fiore della vita mia. Volere bene non costa niente, io voglio bene a tutta la mia gente. Tu sei qualcosa, qualcosa in più, il cuore batte quando ci sei tu. Prima di te io non ho amato mai, e c'era il vuoto in tutti i giorni miei. Adesso voglio vivere per te, noi due insieme, solo io e te, noi due insieme, per sempre insieme, io e te. Io non ricordo, sono sincera, il primo incontro, quella prima sera. Ma quanto è bello vivere insieme, sentirsi vivi e non avere pene. Prima di te io non ho amato mai, e c'era il vuoto in tutti i giorni miei. Adesso voglio vivere per te, noi due insieme, solo io e te. Prima di te io non ho amato mai, e c'era il